sai, lo sai. Lo sai, lo sai. Io vivo di te. Con quello che mi dai, con quello che mi dai. Lo sai, lo sai. Lo sai. Guarda attento, nelle mani che stringo, ci leggo un pensiero, buio, io lo coloro, ma quello che vedo, ciò che è negativo, sempre il mio obiettivo, tutto quello che mi offre la realtà, va o non va, ti dico, chiedi il giro, questo sono io. Perderai, guardati in